Riyadh. Artiste e artisti per la pace e contro la guerra. Oggi per Riyadh, artista ed artisti per la pace contro il riarmo, andiamo a una lettura, un'opera fatta a tante mani, una narrazione che vede diversi autori collaborare al progetto, scrivendo a coppie dei testi che parlano di violenza nelle sue diverse accezioni. Stiamo parlando di Anche se non sto gridando, quest'opera corale col coordinamento della scrittrice Cinzia Proietti, a cui ha collaborato Cristina Cagliò, Giovanni Dozzini, Gabriele Giuliani, Alessandra De Giglio, Luigi Romolo Carino, Patrizia Fortunati, Diego Zillo, Marta Carlini, Leonardo Taverdi, Sara Durantini, Davide Ricchiuti e Patrizia D'Antonio. Proprio Patrizia D'Antonio ci legge un passaggio di questo testo che parla di profughi di guerra, di solitudine, di difficoltà. Le settimane passano nella routine tra i corsi, le passeggiate con Bacari e gli altri e la mia attività di mediatrice volontaria nell'associazione. Anche le notti passano, alcune più difficili, tormentate, notti che mi ripiombano nel passato, attimi notturni che mi riportano indietro e sembrano annullare gli anni lentissimi della vita costruita di giorno in giorno. Il tempo è una prigione quando non hai documenti o quando non puoi decidere della tua vita. Immagino il tempo come un dio burbero che ci domina senza logica. Un attimo dura un'eternità quando pensi di annegare, oppure si sospende e non si può misurare quando vivi costantemente nella paura. Quando la libertà e la legge sono schiave del tempo, non conta più lo scorrere dei minuti, delle settimane, degli anni, ma solo il tuo resistere. Restare viva, rimanere te stessa, umana. Questo è un estratto dal racconto Fortunata, che si trova nella raccolta, nel romanzo corale Anche se non sto gridando, a cura di Cinzia Proietti di Dalia Edizione. Questo racconto, queste parole, sono di una ragazza che eritrea, che si chiama Fortunata, traducendo in italiano Idilenia. È una ragazza che si trova in Italia, minorenne, è una di quelle fortunate che sono riuscite a scappare da un terreno di conflitti. Conflitti è il tema trattato da me in questo racconto Fortunata e da Gabriele Giuliani in un altro titolo di racconto, Mappa concettuale. In questo romanzo corale, ripeto, dove sei tipi di violenza diverse sono raccontate in, appunto, con protagonisti, personaggi e stili diversi, in quanto sono sei scrittrici e sei scrittori che in modo speculare, quindi con 12 racconti in totale, trattano le attenzioni malsane, gli stupri, le spose bambine e altri tipi di violenza. Ne abbiamo già parlato in occasione dell'uscita di questa raccolta l'8 marzo, proprio con la curatrice Cinzia Proietti. E avevo voglia di leggere questo piccolo estratto perché sempre più attuale mi sembra il dolore, lo strazio di chi nei conflitti cerca di resistere, di sopravvivere, tanto più attuale in questo periodo in cui si vedono morire tanti bambini, tante donne, civili, uomini, ragazzi, e non si può tacere, non possiamo essere complici di questo silenzio. e quindi mi permetto di utilizzare questo piccolo spazio. Quindi noi come donne con lo zaino, Patrizia e Raffaella, ci sentiamo ogni tanto di aprire delle finestre, anche dolorose certamente, ma anche con la speranza che tutto questo finisca presto e con il preciso dovere e l'impegno di parlare. Allora questo romanzo corale, che si intitola Anche se non sto gridando, dice proprio questo: anche se le voci di tante persone feriti, morti, che però sono presenti nella nostra mente, nel nostro cuore, sono ben presenti nelle notizie che quotidianamente riceviamo, facciamoli parlare attraverso le parole, attraverso i nostri pensieri, attraverso le nostre convinzioni, le nostre lotte, perché le guerre finiscano. E su questo, anche se non sto gridando, sentiamo anche un breve commento di Cinzia Proietti, che è la curatrice. Questo libro vuole essere non un'antologia, una raccolta, una semplice raccolta di racconti, ma un vero e proprio romanzo corale scritto da 6 uomini e 6 donne su 6 temi che vengono messi in qualche modo a confronto. A gridare saranno quindi 6 scrittori e 6 scrittrici che a coppie affronteranno 6 argomenti che purtroppo ancora oggi, soprattutto anche in questi giorni, ascoltiamo con grande dolore ogni giorno alla cronaca, fatti di cronaca veramente dolorosi. I temi che infatti affrontiamo sono temi di violenza, ma non soltanto una violenza di genere, ma una violenza in generale, una violenza affrontata sotto vari punti di vista. Quindi si parla di violenza psicologica, di violenza economica, di violenza celata nelle parole, negli sguardi, in piccoli gesti quotidiani. Con Bob Marley siamo sempre nella questione del restiamo umani.